non sono mai contento, mai no. Me lo sento dire. Con il rap non spera una cosa ridicola, uscisse almeno gratis in edicola. Tu non sei mai contento, mai no. Non ne risento e trovo più da dire. È per te che sclero, più ti amo più odio, più ti odio più ti amo in un modo nuovo. Oh, io non sono mai contento, mai no. Me lo sento dire. Oh, ma tu non sei mai contento, mai no. Non ne risento e trovo più da dire. Mi faccio troppe domande durante le relazioni, specie su quelle che mi aumentano le dosi. Il mio prof mi disse, lo capirai poi, il maggior numero ti voteranno i serbatoi. Sono convinto che in mezzo a voi, so che tu ci sei, tu sei il mio bingo. A consigliarmelo papà al salto della cavallina, mettile in primo piano prima poi pecorina. L'ho fatto in palestra, garage e cantina, sulle scale in spiaggia spingo sulla sveltina. Con o senza le dovute precauzioni, ho più soddisfazioni se sul letto dei suoi genitori. Un'altra notte buttate in rima, ma tu ci sei, ma non ti sento vicina. Non ti chiamo piccina, micina e bambolina, e tutti i soprannomi idioti che finiscono in ina. Sono quello con la bassa autostima, non ho l'auto però c'ho una bustina. Ma tu ci sei e questo mi, com'è il contrario di rammarica? Quasi risolleva l'anima, e non capita spesso, chi abita con me mi vede depresso. È un po' che non faccio del sesso violento, diciamo che è un po' che non entro. Finisco ed esco e giro con la faccia da vino. Ho la faccia da schiaffi a non starmi vicino. Non ti faccio un sorriso e non faccio l'occhiolino, e odio i saluti forzati con il bacino. Io non sono mai contento, mai no. Me lo sento dire. Con il rap non spero, è una cosa ridicola, uscisse almeno gratis in edicola. Tu non sei mai contento, mai no. Non ne risento e trovo più da dire. È per te che sclero, più ti amo più odio, più ti odio più ti amo in un modo nuovo. Oh, nelle gare entro ed esco e finisco veloce, perché soffro di eliminazione precoce. Mi sento addosso lo stress lavorativo, e il mio capo lo chiama stress da lavativo. Ma che brivido davanti ad un foglio, io mi spoglio, lo sai che ti voglio. Quanto ti odio ma godo nell'agonia, così ignoro stile metrica e pure calligrafia. Finiscimi questa notte in camera mia, provo la malinconia quando vedo luce accesa nella mia via. Sono io lo spento, ed è così che mi sento. Come? Mai contento. Scrivo. Mai contento. Giro. Mai contento. Fumo. Mai contento. Vivo. Mai contento. Rappo. Mai contento. Chiavo. Mai contento. Andiamo. Mai contento. Io non sono mai contento, mai no. Me lo sento dire. Con il rap non spero, è una cosa ridicola, uscisse almeno gratis in edicola. Tu non sei mai contento, mai no. Non ne risento e trovo più da dire. È per te che sclero, più ti amo più odio, più ti amo in un modo nuovo. Oh.